Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Oggi sono molto contenta perché abbiamo un pochino più di tempo, quindi eviterò la solita corsa o così citazione concitata di troppi articoli. Allora cominciamo dalla Frankfurt Allgemeine Zeitung, quella che vi descrivo spesso come la signora in grigio dei quotidiani tedeschi, un quotidiano molto serio, molto autorevole, pochissime fotografie, pochissimi colori, e in questa settimana prenatalizia si è dedicata un po' al bilancio della riforma del lavoro più importante della storia del dopoguerra tedesco, che è la cosiddetta Hartz IV. Era stata voluta 10 anni fa dall'allora cancelliere Gerhard Schröder, che su questo si giocò sicuramente molti consensi, ma allo stesso tempo ebbe sicuramente un atteggiamento da statista, perché questa è una riforma che ancora oggi viene presa a esempio da tanti altri paesi. E allora scrive la Frankfurt Allgemeine Zeitung, che comunque fa un bilancio anche economico per capire quanto una riforma così profonda possa costare alle casse di uno Stato, e scrive: per garantire i sussidi ai disoccupati di lungo corso e redditi bassi, appunto previsti dalla riforma Hartz IV, introdotti 10 anni fa durante il governo del cancelliere Schröder, la Germania ha speso complessivamente 450 miliardi di euro. La Frankfurt Allgemeine Zeitung, che spesso viene chiamata FAZ, ha scritto questo articolo citando naturalmente i dati del Ministero del Lavoro e spiegando che tra il 2005 e il 2013 il governo federale ha investito 313 miliardi di euro, mentre altri 92 sono stati pagati dai comuni. A questi vanno aggiunti i fondi per l'anno per il 2014, che poi sono in linea con i precedenti. Circa la metà dei soldi impegnati sono andati ai disoccupati e ai redditi sotto il livello minimo di sussistenza. Il resto è stato impiegato per pagare loro l'affitto e il riscaldamento, oltre che per i costi di gestione e le politiche per il lavoro. Questo naturalmente dovrebbe farci capire che quando si parla di reddito di cittadinanza o di riforma degli ammortizzatori sociali dobbiamo avere molto ben presente quali sono i costi. E la FAZ ha parlato con Peter Hartz, che era appunto un ex manager che ha dato il suo nome alla riforma perché era consigliere del governo Schröder e di fatto autore di queste riforme del mercato del lavoro che hanno veramente cambiato marcia al paese. Secondo Hartz, oggi servono nuovi interventi che riducano il fenomeno della disoccupazione di lungo corso. Interpellato dalla FAZ, Hartz ha lodato le proprie riforme, insomma un po' di autoincensamento ma forse non guasta, grazie alle quali, dice, in Germania la disoccupazione giovanile è più bassa rispetto alla media europea. Il concetto che ha animato quegli interventi, dice Hartz, è ancora giusto, mentre è sbagliato dividere le persone tra pigri e zelanti. Bisogna però accettare la realtà dei mini job e del lavoro part time a tempo determinato, molto criticato da alcuni perché per altri è l'unica strada verso l'occupazione. Questo è veramente, se ci pensate, il tema di cui stiamo discutendo anche in Italia, cioè come mai la disoccupazione giovanile invece nel nostro paese è così alta e come evitare il rischio che un sussidio di disoccupazione, succede, è successo per esempio nel Regno Unito, disincentivi la ricerca di nuovi lavori. E da qui quelli che appunto Hartz chiama mini job, cioè lavori a tempo determinato, che però se in qualche modo viene garantita la possibilità di rinnovarli continuamente, possono essere un'alternativa al classico contratto a tempo indeterminato. Cambiamo completamente argomento e torniamo su un argomento che in realtà riguarda tutti noi, nel senso gli utenti delle notizie, ma anche chi le fabbrica, diciamo, quindi noi giornalisti, ed è questa battaglia tra l'Europa e Google. Ne ha scritto per esempio Público, che è un giornale spagnolo, perché sapete che il 16 dicembre Google News ha chiuso il suo servizio in Spagna. Credo che ognuno di noi abbia usato Google News qualche volta, è quella sezione del sito di Google dove si possono mettere delle parole chiave e cercare su quali mezzi di informazione sono apparsi articoli su quell'argomento che ci interessa. Secondo gli editori spagnoli, questa è una Google, così facendo violava il copyright, la proprietà intellettuale, e quindi appunto Google ha risposto che non era disposta a dare in cambio le royalties, diciamo, sugli articoli che gli editori chiedevano, e quindi ha chiuso il servizio. Ha scritto appunto Público, questo quotidiano spagnolo, che la Spagna diventa così il primo paese al mondo in cui Google opera in cui questo servizio viene chiuso. Il governo richiede chiede, il governo spagnolo ritiene che Google abbia anticipato troppo nel decidere di chiudere la sezione Google News in Spagna, perché la compensazione economica a beneficio degli editori da parte degli aggregatori contenuti nella legge, che tra l'altro sembra appunto, questa legge spagnola sembra fatta apposta per, diciamo, punire tra virgolette Google, tant'è che si chiama Google Tax ed entrerà in vigore in gennaio, doveva ancora comunque essere negoziata. Cioè, c'erano degli spazi, ma Google ha preferito semplicemente appunto togliersi da questo impiccio e lasciare la Spagna nella parte news. Spiega ancora Pubblico che la legge spagnola si ispira in realtà a quella che era stata già votata nel 2013 dalla Germania e che lascia però più spazio al negoziato con gli editori. Anche in Germania Google ha rifiutato però di pagare gli editori, anzi ha sporto denuncia e ha ritirato molti contenuti da Google News. Adesso un altro quotidiano spagnolo, ABC, spiega che il giorno stesso in cui Google ha annunciato la chiusura di Google News, gli editori dei mezzi di informazione tedeschi hanno chiesto al governo di Angela Merkel di rafforzare quella legge sulla proprietà intellettuale per difendere i contenuti dinanzi a Google secondo il modello spagnolo. Se appunto la mossa degli editori spagnoli farà scuola o no, si farà spazio in Europa e magari anche negli Stati Uniti, perché il problema di pagare i contenuti è un problema universale. C'è qualcuno che li mette insieme, noi giornalisti, più o meno onestamente, più o meno bene, e poi però ci deve essere qualcuno che in qualche modo li paga. Se tutto è gratis, finisce poi che nessuno ha più le risorse per costruire dei contenuti di qualità. Questo è un po' il tema che attraversa, tra l'altro, tutto il sistema dell'informazione online, non solo quello legato a Google News. Tra l'altro, di questa battaglia, diciamo, tra Google e gli editori spagnoli, il governo spagnolo, si sono occupati moltissimi quotidiani. Per esempio Le Monde ha scritto che la vicenda spagnola è l'ultimo atto di quella che viene definita la fronda europea contro Google, e Mike Elgan addirittura l'ha definita una forma di molestia volta a distruggerlo. Per il quotidiano francese, i mezzi di informazione nazionali accusano il motore di ricerca americano di usare i loro contenuti senza pagare, i suoi concorrenti su internet sospettano che Google approfitti della sua posizione dominante per meglio vendere i suoi servizi, e gli stati naturalmente rimpiangono le mancate entrate, mentre il gruppo è un virtuoso dell'ottimizzazione fiscale. I cittadini, tra l'altro, oltre al fatto di cercare di garantirsi, spero, dei contenuti di qualità, sono anche un po' preoccupati per la protezione dei dati personali. Ma per esempio la Spagna adesso ha fatto notizia, però sempre sui quotidiani europei troviamo notizia anche ci ricordano che il Belgio è stato uno dei primi paesi dove i mezzi di informazione si sono mobilitati contro questo aggregatore di notizie che è Google News, addirittura con una sentenza del 2007, pensate, quindi 7 anni fa, confermata poi nel 2011, e la giustizia belga in quel caso diede ragione a CopyPress, una società belga di gestione del copyright, nota a chi lavora nel settore per la sua rigidità, e condannò in quel caso, in Belgio, venne condannato appunto Google a ritirare tutti i testi, le immagini, le rappresentazioni grafiche dei membri di questo CopyPress, di questo aggregatore di notizie che però vende i suoi contenuti a pagamento, non gratis come fa Google News, con una multa, pensate, addirittura di 25.000 euro, ma non una tanto, ma al giorno. Alla fine del 2012 però il Belgio e Google raggiunsero un accordo di cooperazione per la promozione reciproca dei loro prodotti. Attenzione, ricorda sempre il quotidiano belga Le Soir, che anche in Austria c'è una nuova legge sulla proprietà intellettuale che prevede simili forme di remunerazione. C'è poi la Francia, dove, ricorda Le Monde, c'è un modello di cooperazione tra Google e lo Stato. C'è stata anche lì una lunghissima vertenza, cominciata molti anni fa, però nel 2013 Google ha accettato di finanziare un fondo per l'innovazione digitale della stampa, che ha aiutato 53 progetti e speso poco meno di 40-60 milioni di euro in 3 anni. Vedremo, insomma, è veramente un tema che attraversa tutta l'Europa, ma ripeto, probabilmente riguarda anche gli Stati Uniti. Passiamo a un argomento completamente diverso e torniamo sulla stampa tedesca. L'argomento è il movimento anti-Islam Pegida, è un movimento che sta prendendo piede in Germania. Ne hanno scritto la settimana prima di Natale la Welt, la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, quindi l'edizione della domenica, e la Zeit, che è un settimanale. Infatti il 15 dicembre c'è stata una manifestazione a Dresda, che è anche la città natale di questo movimento Pegida anti-immigrazione, e questa manifestazione ha attirato oltre 10.000 persone, mentre in varie città della Germania si organizzano altre proteste. E tutta la stampa tedesca, come vi dicevo, si interroga sul significato di questo movimento, che sta per patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente. Secondo, per esempio, Klaus Christian Malzahn, che l'ha detto chiaramente su Die Welt, nessuno ha presagito la nascita del movimento, né la politica né la stampa, e quindi adesso in tutto il paese si discute sul significato degli eventi di Dresda. Qualcuno dirà 10.000 persone non sono tante, sì, però appunto, come scrive la Welt e come notano gli altri quotidiani, in realtà il movimento si sta diffondendo molto velocemente. Alcuni la considerano questo Pegida solo una rivolta dell'estrema destra, altri soltanto lo sfogo di un gruppo di cittadini preoccupati. Su un punto però sono tutti concordi: Pegida è qualcosa di più di un fenomeno a livello sociale, e alcuni politologi considerano queste dimostrazioni addirittura alla stregua di una cesura storica, il sintomo di un rapporto spezzato tra politica e popolazione. E anche questo è un tema, quello della cosiddetta disintermediazione, cioè dove, quando appunto le persone, i cittadini, non si riconoscono più, non si sentono più rappresentati dai politici, e quindi nascono questi movimenti spontanei completamente al di fuori dei partiti politici nazionali e tradizionali, e che in alcuni casi, se hanno posizioni molto estremiste, possono anche apparire pericolosi. Vediamo per esempio sulla Zeit, e anche in questo caso, come spesso accade, questi articoli li troviamo tutti accomunati, citati, anche ragionati, diciamo messi insieme con un ragionamento, grazie a presseurope.eu, quel sito, sapete, che a me piace moltissimo, che ci permette una finestra, è uno dei pochi siti che permette un'autentica finestra sulla stampa europea, in questo caso in tedesco, che forse è più accessibile di altre lingue, ma anche, come sa chi segue questa rassegna stampa europea, a volte offre veramente delle finestre su quotidiani di paesi che sarebbero invece difficilmente accessibili per via appunto della scarsa diffusione delle rispettive lingue. Ma vediamo appunto che la Frankfurter Allgemeine Zeitung addirittura ha scomodato, diciamo così, il direttore per commentare questa crescita del movimento Pegida, e Bertolt Kohlers invita appunto l'establishment politico a prendere sul serio Pegida e scrive: la protesta si rifiuta di essere messa nell'angolo della destra. Il messaggio secondo cui coloro che marciano a Dresda e in altre città non appartengono solo alla destra radicale ha raggiunto Berlino. Prendere la cosa sul serio significa considerare le proteste non soltanto come un temporaneo tormento prenatalizio, ma perseguire politiche per l'immigrazione che siano collegate agli interessi dei paesi. Perfino in Germania è legittimo chiedere agli immigrati di mostrare desiderio e interesse per l'integrazione. La Germania, sapete, ha una lunga storia di immigrazione, soprattutto della Turchia per esempio, e anche di integrazione, però è chiaro che di fronte a flussi migratori sempre più importanti e da paesi dai quali magari finora la Germania non era abituata ad accogliere immigrati, crescono le tensioni. Secondo un sondaggio citato dalla Zeit e fatto insieme a YouGov, il 73% dei tedeschi teme che l'Islam radicale guadagni influenza. Soltanto il 29%, tra l'altro, respinge le idee di queste proteste come quelle di Pegida, mentre il 49% in qualche modo le appoggia. Passiamo a un argomento un po' diverso che abbiamo citato tante volte nelle settimane scorse, che è naturalmente quello della BCE, delle riforme e delle mosse economiche, perché altro non possono essere che economiche, della Banca Centrale Europea. In questo caso ho dato un'occhiata al blog di Marco Zatterin, che è il corrispondente da Bruxelles della Stampa. Il suo blog si chiama Strana Europa, vi accedete dal sito della Stampa, e prima di Natale ha fatto una riflessione su come si possono veramente trovare strade alternative per rilanciare gli investimenti e quindi, si dice sempre, la crescita e l'occupazione. Scrive Marco Zatterin: il punto di partenza è che per poter mettere soldi veri ci sono solo tre possibilità: finanziamento tramite gli stati membri, finanziamento tramite la BCE, emissioni di titoli di debito tipo Eurobond, cioè i famosi titoli di Stato europei che la Germania tanto osteggia. Quest'ultimo è oggetto di dibattito dibattito da anni, scrive appunto Marco Zattarini, e sappiamo che molti paesi, in primis la Germania, sono contrari. E appunto vi invito a leggere sul blog di Marco Zattarini, che tra l'altro è costantemente aggiornato, adesso si è preso anche lui una pausa natalizia, ma è sempre ricco di spunti, e fa questo ragionamento e conclude. C'è anche un'altra idea, si potrebbe concedere al fondo la licenza bancaria, al fondo per, naturalmente, che eroghi questi finanziamenti. Questo gli consentirebbe di finanziarsi direttamente dalla BCE alle attuali condizioni di favore concesse alle banche commerciali. L'effetto di questa azione sarebbe molto potente e di vasta portata. Tuttavia, un'analoga richiesta fatta quando si dovette costituire il fondo di stabilità fu bocciata, aggiungo io, ma guarda un po', dal fronte del nord, guidato dai tedeschi, che continuano a non dimenticare Weimar. Weimar naturalmente è la Repubblica di Weimar, tutto quello che ne seguì, quindi si dice spesso che le ferite della Prima Guerra Mondiale e anche degli eventi che precedettero la Seconda Guerra Mondiale sono ancora in qualche modo aperte. C'è chi teme ancora la Germania teme forse un pochino anche se stessa, e comunque c'è questo grande tema del non voler dare alla Banca Centrale Europea un'autonomia economica e finanziaria, come se veramente potesse poi decidere che cosa fare negli Stati membri, quindi un'ingerenza che la Germania non vuole. Ma torniamo alla questione dell'Ucraina, che resta aperta, sarà sicuramente uno dei temi che ancora ci occuperà nel 2015. In questo caso, sempre grazie a Press Europe, leggiamo dal quotidiano ucraino Den che il Parlamento del Paese ha votato il 23 dicembre, quindi subito prima di Natale, una legge che abolisce lo status di paese non allineato. Che cosa vuol dire? Secondo il giornale di Kiev, questa legge, che è stata approvata da 303 deputati su 445 e sostenuta dal presidente Petro Poroshenko, stabilisce che l'integrazione dell'Ucraina nello spazio politico, economico e legale europeo allo scopo di ottenere l'adesione all'Unione Europea e alla NATO sono fra gli interessi nazionali prioritari del paese. Il quotidiano Den aggiunge che dopo 10 anni di indugi, migliaia di vite perse, di perdite territoriali, finalmente si è arrivati appunto a questa legge, che può essere una svolta. La NATO nello stesso giorno proprio in cui è stata approvata questa legge ha detto: se l'Ucraina adesso vuole fare formale richiesta di ingresso nella NATO, noi la analizzeremo come sempre facciamo con queste richieste. E tra l'altro ho sentito proprio ieri credo proprio qui al GR di Radio 24 che in realtà la NATO il presidente russo Putin, anche qui ma guarda un po', ha adesso preso una posizione molto dura verso la NATO, considerando la NATO quasi come un nemico. Sembra di essere veramente tornati ai tempi della guerra fredda. Abbiamo tempo ancora per un'ultima segnalazione, in questo caso andiamo in Grecia, facciamo ancora un altro volo, perché sapete che proprio anche qui prima di Natale c'è stata la seconda votazione per cercare di eleggere il presidente greco. La prossima sarà lunedì, il 29 dicembre, sarà il terzo voto e potrebbe essere decisivo. Molti sperano che sia decisivo, perché sapete che l'incertezza in cui potrebbe piombare la Grecia se non si riesce a eleggere un nuovo presidente, e quindi si va a elezioni anticipate, con quello che molti europei considerano un grande rischio, cioè la vittoria di Alexis, del partito di Alexis Tsipras Siriza, che è totalmente anti-europeo. Ecco, questo pericolo appunto di andare a elezioni anticipate con questa grandissima incognita dovrebbe essere scongiurato se si riesce finalmente a eleggere un presidente. Era l'ultima segnalazione, grazie per averci seguito questa volta per quasi il doppio del tempo rispetto al normale. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.